Sono stanco, voglio dormire. C'è un solo modo per vincere il sonno, così. Arrivederci. Wipe off that tear as I whisper till we meet again. Though it's goodbye forever, let's pretend we dared love to catch us and always laughed at romancing. Now we must realize we're... Canta come un angelo. Siete tutti molto bravi. E una scrittura, la troverete di sicuro. Sì, nel coro degli alpini. A te potrei proporla subito io, una scrittura. Un contratto con te? Un'offerta che potrebbe interessarmi. Sentiamo le condizioni. Beh, naturalmente un contratto a vita. E soprattutto, subito, un anticipo. Our sunny days are over. Now is the time. Our sunny days are over. Now's the time to part.